cor per desti, per un miraggio. Quel cor tradisti, odiar di più non può. La mia voce senti, il suo. Perdersi, ti prego.